11:10 di questo martedì 16 settembre, dopo una lunga pausa estiva, torniamo in onda con Parole Ribelli, di nuovo ad allietare i vostri martedì mattina. Quest'oggi ai controlli qui negli studi di Via Cecchi ci sono Francesca e Eddie. Ciao a tutti e tutte. Iniziamo insomma come da tradizione con un po' di ritardo, ma ecco, era anche interessante dare spazio alla testimonianza sicuramente preziosa dei compagni turchi, quindi abbiamo ceduto volentieri qualche minuto. Vi ricordiamo come sempre i contatti per scriverci durante la trasmissione: 346-667-3263, il numero per gli sms, segnalazioni e cisti. E per chiamarci al fisso 011-2495-669. Noi adesso vi facciamo svegliare con calma con un po' di musica e poi ricominciamo per un altro anno sulle libere frequenze. A proposito di cisti, mentre iniziavamo la puntata è arrivata una prima segnalazione, ci scrivono vigili in lungo Stura Lazio direzione Corso Giulio, quindi per chi fosse da quelle parti cisti. E un altro è arrivato invece proprio in questo momento, posto di blocco con due volanti della polizia in via Nizza all'altezza di Corso Marconi. E niente, noi adesso come di consueto andiamo a presentarvi la puntata per insomma illustrarvi un po' gli argomenti che andremo ad affrontare in questo ritorno ai microfoni di Blackout. Inizieremo con una diretta da Palermo, dove ieri Premier Renzi era andato in visita in una scuola per inaugurare l'anno scolastico. Ha trovato ad attenderlo studenti e precari che l'hanno contestato, in particolare in riferimento a quello che è il piano di riforma per l'istruzione che il governo ha presentato la settimana scorsa, ovvero quello della buona scuola. Ci faremo raccontare dalla voce di uno studente che era presente com'è andata, soprattutto insomma come anche gli studenti medi stanno iniziando un po' a scaldare questo autunno. Poi andremo avanti con la presentazione della Due Giorni che ci sarà questo weekend in Cavallerizza. Ricordiamo a tutti e tutte che il 23 e il 24 si terrà a Torino il Vertice per la Cultura presieduto dal Ministro italiano, e quindi ovviamente la Cavallerizza, che è su questo tema, sulla Torino culturale, la Torino dei grandi eventi e la Torino, diciamo, del centro, contrapposta anche alla Torino dei quartieri, fa un discorso da tempo, e quindi sicuramente ci saranno, diciamo, da presentare cose interessanti. Infatti sentiremo anche Pagliassotti, autore del libro Sistema Torino, Sistema Italia. E ci sposteremo infine a Bologna, dove domani si aprirà la 4 giorni dal nome InfoOut Connection, 4 giorni di dibattiti, concerti, presentazioni di libri e molto altro ancora. Ci faremo illustrare un po' il programma con un focus particolare all'assemblea che ci sarà sabato pomeriggio, che ci riguarda insomma un po' più da vicino rispetto agli argomenti che trattiamo di consueto a questi microfoni, che sarà discussione, prospettive di lotta, soggetto giovanile ed inchiesta militante dentro ai bordi del mondo della formazione. Oltre a questo, ovviamente, insomma, essendo la prima puntata dell'anno, andremo anche a fare un po' il punto su insomma le università in giro per l'Italia, in particolare sugli spazi occupati che durante l'estate, come era prevedibile insomma da parte della controparte, sono stati attaccati, sgomberati. Insomma, faremo un po' il punto della situazione verso un nuovo anno che sicuramente vedrà nuove spinte anche in questa direzione. Nel frattempo, mattinata piena di insidie per gli automobilisti torinesi, ci arriva un'altra segnalazione di questa volta di un autovelox in corso Giulio Cesare dopo il ponte Stura in direzione centro, quindi nuovamente cisti. Noi adesso vi lasciamo a un po' di musica e nel frattempo prepariamo le prime dirette. Buon ascolto. Keep moving, everybody put your hands up. the marching band. Doomies of Chinese man. Once upon a time in this great land, European settlers were set up on the caveman quest. Dutch king summoning young Van Beck. The rest was Queen Elizabeth conquested, but played quite well by Kate Blanchett. Great actress, wait, I may digress. Before that was pyramids and villages with big meat, little men and other such dinners and the rest. Complex systems of living, some fishing, some building, and others outfilling. Matriarchy, where the kings were trapped women, painted art skills, seen today in tribes, symbols, it's a cycle. Your beginning is your ending, or your interim. Your appearance is a historic coincidence, but they link it to your incorrect conditioning. Now everybody's screaming racism as a consequence. Bring off the marching band, let them play an anthem for a continent. You and the box of plan, liberate the mind, but forgot the land. Bring out the marching band, let them play an anthem for a continent. Why you don't watch the plan, liberate the land, but forgot the man. Feel the momentum of an unspent force. A liberation found, another one get lost. Magazine kept while the gun get tossed. Perpetual provisions of the sunset clause. No wonder they demand more. Nobody planned for Brazilian cuts in the pubic crotch of a land court in a Mexican standoff. Picture a poverty-stricken finger twitching on the hairpin trigger and pause. Can't deny my stress. I know better than to claim the wild, wild west. It's to reign that I address. There's a mindset bigger than jail, the less serious the crimes get. So the tumbleweed rolls through these empty streets. They shot the sheriff, all we have is the deputy. And he definitely does not want to rock the boat. So we work hard, sharp and gloat. The gift we bring. Bring out the marching band. Let them play an anthem for a continent. You and the box of plan. Liberate the mind, but forgot the land. Bring out the marching band. Let them play an anthem for a continent. Why you don't watch the plan? Liberate the land, but forgot the man. He bought a range, but it ain't all. Caught a plane, but it ain't take off. JFK, straight shot, Great Lakes paying for it. Hate makes the air foggy, ass safe. Takes notice, play it safe, same result. Today the flame, get the rainbow. So to y'all, you can rise away to the new realize the tape is off. Make a law, take a farm. You get out your acres, I've seen the roof crack. Then I hand out, pick the arms, embargo. Let it be my own Zimbabwe. Tell Colin Powell to swallow my bow and arrow and follow that. With his toes and angle to photograph. My ass, no power to cover from all of that nasty. All about poverty, playing at all happy. Can you think it a little in a acne creep? A Vaseline, you wait till them Somali kids give you a take from that Bruce Wayne alley scene. Bring out the marching band. Let them play an anthem for a continent. You and the blocks the plan. Liberate the mind, but forgot the land. Bring out the marching band. Let them play an anthem for a continent. Allora, 11:24, iniziamo ad addentrarci nel programma di questa puntata. Come avevamo annunciato poco fa, abbiamo pronta la prima diretta. Dovremmo avere a questi microfoni Vito, degli studenti medi di Palermo, che intanto salutiamo e ringraziamo per essere qua con noi. Ciao Vito, ci senti? No, evidentemente abbiamo perso la linea. Vabbè, lo richiamiamo subito e torniamo in diretta. I'm in a cycle with my boy, we be getting busy, getting up props like Jazz at the Dizzy. Time for your mind, too, time for the ism. That's what my man can do. Yo, uno vino da un paese, non è scafati. L'altro parla inglese, mi stavrei da New York City. Come va mio friend, nel famoso cartoon, co-protagonista del Boom Chaka Boom. When we get up on the mic, yo, we get down to business. Too many whack brothers make me say, yo, what is this? Representing lovely like the sunny day in May. Trying to F with ours, find a little in the hay. Yo, it got to be real, that's how I feel. Too many whack brothers walk and talk about steel. They bustin' in the cap and then they still be bitch slapped. But what the fuck is that shit got to do with rap? Yo, being sento l'energia, manco mi vede quando arrivo con la tecnologia, come fede sopra il beat, faccio la finezza, click G e Bologna in questo business, si fissa un bella day. To my nigga, never never tougher than leather. All the wacky seeds, better get this shit together, cause we ain't playing. Cause all we living for is what? Yo, funky rock saying. Yo, if you can catch the words, then no competition left for all. If you can catch the words, then no competition left for all. If you can catch the words, then no competition left for all. When you can see through the song, what's the team? Allora, dovremmo aver recuperato la linea con Vito. Vito, ci senti? Sì, vi sento. Ok, perfetto, adesso ci siamo. Allora, come dicevamo poco fa, con te volevamo un po' parlare della contestazione che c'è stata ieri mattina a Palermo, dove il Premier Renzi è venuto a inaugurare l'anno scolastico in una delle scuole della città, una messa in scena che è andata, che abbiamo visto anche da altre parti in giro per l'Italia ieri, che in un certo senso era anche già stata annunciata dal governo durante la fine dell'estate, che appunto aveva detto che era pronta ad andare scuola per scuola a spiegare la nuova riforma, a incontrare gli studenti, gli insegnanti, a costruire assieme questa famosa buona scuola. Allora, noi vorremmo partire proprio da qui e sentire da te insomma, come mai invece gli studenti sono già pronti a scendere in piazza contro questa riforma? Sappiamo che già appunto durante l'estate ci sono stati dei momenti di confronto, di discussione, che sono già state lanciate delle date di mobilitazione, quindi ti chiederei un po' di illustrare questa riforma, come mai appunto vi state organizzando, e anche appunto raccontare un po' come è andata ieri mattina. Sì, noi quest'estate già abbiamo discusso come network nazionale di Studout di quella che sarà la riforma Renzi Giannini, che riguarderà la scuola, o la buona scuola come la chiama lui. Appunto ieri ci siamo, come studenti di Palermo, quindi il coordinante delle scuole di Palermo, ci siamo organizzati e siamo andati a contestare quello che per Renzi doveva essere l'inizio di dell'anno scolastico. Inizio di anno scolastico è prova della scuola appunto sempre più precarizzata, sempre più in condizioni davvero critiche, nel senso che appunto tutta quella che è la farsa delle assunzioni, di queste 148.000 assunzioni, che poi c'è appunto, si va a parlare un minimo con i precari, insomma, che ci sono nelle piazze come la piazza di ieri, non ci crede nessuno. Sono, diciamo, assunzioni che andranno semplicemente a precarizzare ulteriormente quelli che già hanno una cattedra fissa, ad assumere con stipendi patetici quelli che sono tutti gli altri in concorso ad aspettare una cattedra. Poi per quello che riguarda gli studenti si può dire sicuramente che non è una riforma fatta ad hoc per gli studenti, nel senso che appunto si va a vedere quanto non si sia nemmeno sfiorato il discorso, ad esempio, dell'edilizia scolastica. Qui a Palermo si può dire di scuole che realmente sono in condizioni critiche. Ad esempio nella mia scuola, Regina Margherita, fino all'anno scorso gli studenti stavano in un plesso che rischiava di crollare. Appunto si vede quanto questa buona scuola in realtà non vada, diciamo, a toccare realmente quelle che sono le problematiche della scuola. Dopo, diciamo, tutta questa minima introduzione alla riforma, come diciamo ci siamo detti noi di Studout, abbiamo fatto questo hashtag, io non ci sto, appunto, come discorso unificato di tutti gli studenti che non ci stanno con quella che sono le politiche di austerity nascoste da una bella faccia. Niente, noi ieri siamo arrivati davanti all'istituto Puglisi insieme a precari e disoccupati di vario genere, prevalentemente della scuola, per contestare Renzi, che è arrivato lì appunto super scortato, una città militarizzata estremamente, appunto perché non accetta. Non è vera la questione del confronto con gli studenti, ieri l'ho dimostrato chiaramente. Eh sì, e quindi insomma insieme a voi la composizione della piazza vedeva anche quindi i precari insegnanti, quindi ci si può aspettare che quest'autunno magari qualcosa si muova anche sul loro fronte, che insomma questa favoletta delle assunzioni in un certo senso non sia stata digerita tanto bene da chi poi realmente si trova a lavorare nella scuola. Peraltro questa cosa delle assunzioni dovrà fare i conti con la mancanza di fondi e di risorse, quindi insomma una promessa che poi è tutta da vedere nei fatti. fondi inesistenti, sì, tant'è che appunto tutti quelli che sono i sindacati, anche molto, diciamo, abbastanza vicini ai partiti, nemmeno loro ci stanno. Noi invece, come studenti auto-organizzati, come collettivo autonomo a livello nazionale, stiamo organizzando per dei cortei. Noi come studenti di Medi Palermo scenderemo in piazza il 3 ottobre, nel resto d'Italia ci saranno cortei per tutta la durata del mese. Va bene, allora Vito, sicuramente ci riaggiorneremo nelle prossime settimane dalle piazze degli studenti di tutta Italia. Intanto ti ringraziamo per questa diretta, insomma, diciamo che da questo punto di vista l'anno scolastico si è aperto sotto un buon segno per le rotte, speriamo che sia così per tutte le altre scuole in cui Renzi o altri esponenti del governo vorranno eventualmente presentarsi, e appunto rilanciamo anche noi l'appuntamento nelle piazze per, insomma, già a partire dal 3 ottobre in poi fino ad arrivare alla data del 16. Noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ti auguriamo una buona giornata. Arrivederci. Ciao. Insomma, questo per quanto riguarda Palermo. Noi facciamo un breve stacco musicale, poi proseguiamo con la puntata. I'm in the cycle with my boy. Io uno viene da un paese, nome è Scafati, l'altro parla inglese, mi segue da New York City come Barney e Fred nel famoso cartoon, co-protagonisti del Boom Chuck Boom. When we get up on the mic, yo, we get down to business. Too many whack brothers make me say, yo, what is this? Representing lovely like the sunny day in May. Trying to F with ours, finally living in the hay. Yo, it got to be real, that's how I feel. Too many whack brothers walk and talk about steel. They bustin' in the cafe, then they silly bitch slapping. But what the fuck is that shit got to do with rap? Yo, chi non sente l'energia, manco mi vede quando arrivo con la tecnologia come vede sopra il beat, faccio la finezza, click, GE, Bologna, questo business, il fish con bella day, peace. To my nigga, never definitely talk with the leather. All the wacky seas, man, they get this shit together, cause we ain't playing, cause all we living for is what? Yo, funky rock, say no. Yo, if you can catch the words, say no confusion, that's for all. If you can catch the words, say no confusion, that's for all. If you can catch the words, say no confusion, that's for all. Where you can still feel the song, what's the team like fun? If you can catch the words, say no confusion. If you can catch the words, ain't no confusion at all. If you can catch the words, ain't no confusion at all. You can still feel the fuck, what's it in the fuck? Hello, lasciati guidare dalla voce di me. Yeah, perditi nel ritmo del soul funky jazz. Dentro a tuo stereo, il posto migliore che c'è. World, lascio una hit col socio che è qui con me. Messaggero della dopa. No, you can't cope with the cope, stereo energetic, superstar style. Let me tell you about the situation, it's wild like fuck. La mia ispirazione è garantita dal loop. Questo stile è grasso come Bazook. Questo 5 è pazzo più di Pino Daniele. Questo beat è marcio come il tempo della mele del 96. Faccio stare bene il mio guaglione di dopamina star. Se tu vuoi la tecnofici bye bye. Garantito qui vi non mi troverai, sappi. Sono in progressione ma non sono gli appi. Represent, represent, già sai Dre and F together. Shit is got to be fly. Word up, we don't fake, we don't fuck. In the studio lounging, fucking up Netflix. È messaggero di me con il mio guaglione Dre Lo. La produzione dopamina da star bene un po'. Suona pure per chi non lo vuole. Ci cerca un posto al sole. Perciò se non capisci le parole, se non capisci le parole, if you can catch the word. Se non capisci le parole, if you can catch the word. Se non capisci le parole, if you can catch the word. Se non capisci le parole, if you can catch the word. Se non capisci le parole, if you can catch the word. Se non capisci le parole, if you can catch the word. Se non capisci le parole, if you can catch the word. What's it in the clown? You can still feel the clown. Se non capisci le parole, if you can catch the word. Se non capisci le parole, if you can catch the word. Se non capisci le parole, if you can catch the word. What's it in the clown? You can still feel the clown. Se non capisci le parole, if you can catch the word. Se non capisci le parole, if you can catch the word. Se non capisci le parole, if you can catch the world, what's it in the fun? You can still feel the fun. E allora, tra una diretta e l'altra, aggiungiamo intanto due parole su questa riforma che, ripetiamo, in realtà finora è stato più che altro un annuncio, così un po' uno spot pubblicitario da parte del governo Renzi, perché di fatto si tratta di linee guida che sono state date, che verranno approvate poi, insomma, dopo dicembre con il nuovo anno, quindi insomma parliamo ancora di appunto di linee guida, non di qualcosa di concreto, ma insomma le indicazioni che il governo ha dato parlano abbastanza chiaro rispetto a quelle che appunto è il modo con cui questo governo vorrebbe mettere mano al mondo della formazione. Sicuramente per quanto riguarda il versante degli studenti salta subito all'occhio come venga implementato quello che già era un po' un processo già in atto, ovvero quello di mettere al lavoro gli studenti già a partire dalle aule, quindi ancora prima che concludano il proprio percorso di studi. Questo ovviamente andrà ad incidere ovviamente in particolare sugli istituti tecnici e professionali, dove appunto le aziende avranno un vero e proprio accesso diretto alla forza lavoro degli studenti che dovranno intraprendere in maniera obbligatoria per poter concludere il proprio percorso di studi apprendistati, ovviamente nella maggior parte dei casi non pagati, che verranno appunto spacciati per forme di avviamento al lavoro, ma che di fatto saranno a tutti gli effetti lavoro gratuito. Quindi sicuramente questo è un aspetto che ritorna molto in queste pagine con cui appunto il governo ha presentato questa buona scuola, assieme appunto al ruolo sempre più preponderante dei privati, perché il governo ha detto senza mezzi termini che le risorse pubbliche ovviamente non basteranno mai a fare tutte le cose che si sono preposti di fare, e che quindi sarà compito poi di ogni singola scuola andare a raccattare da una parte e dall'altra capitali privati, vendendosi insomma nel migliore dei modi sul mercato e cercando appunto di attrarre qualche risorsa. Poi l'altra novità di questa buona scuola renziana è l'accentramento ulteriore del potere dei presidi dentro agli istituti scolastici, che di fatto poi assumono sempre più la forma dell'azienda, con l'immancabile capitano che appunto in questo caso diventa il preside o la preside. Abbiamo proprio con l'anno scorso, ricordiamo, con i compagni del liceo di Palermo avevamo riportato un caso eclatante di quanto questo possa essere pericoloso, nel senso in cui erano stati consegnati da parte della preside alla Digos gli studenti che erano stati protagonisti dell'occupazione dentro le scuole. Ecco quindi perché questa uno dei tanti rischi di questa manovra. Interessante anche il modo, la modalità comunicativa che continua a portare avanti Renzi, questa retorica del siamo tutti sulla stessa barca, quindi quella della buona scuola di fatto non è una riforma, e non è una riforma perché sia qualcos'altro, ma perché è una sorta di progetto comune dal bacchettare i cittadini e richiedergli il sacrificio e di eseguire l'ordine dato, è cambiata completamente lo schema comunicativo, adesso siamo tutti insieme, andiamo tutti nella stessa direzione in teoria, e soprattutto ci sono queste magnifiche consultazioni di un paio questa consultazione su come dovrebbe essere la scuola, che durerà un paio di mesi. Infatti, come diceva Francesca prima, l'operazione ad ora è più che altro mediatica. A proposito di operazioni mediatiche, una nota molto simpatica: finalmente Repubblica dà una notizia così come la dovrebbe dare. E se lo stiamo postando sulla nostra pagina, se andate sul sito di Repubblica vedrete questo titolo: ecco il mostro degli abissi, catturato il calamaro gigante, e sotto la foto di Borghezio. Quindi finalmente l'informazione anche su Repubblica comincia a inquadrare, comincia a imbroccare qualcosa. E noi adesso prepariamo le altre dirette e andiamo avanti con la puntata. Yeah, yeah. Sì. Cara sucia, no

pazza di festa. Eppure al giorno d'oggi sono tutti scene pazze. Un cuore prigioniero e devo pure dire grazie. Sono stanco di tirare a stampare. Ci fosse ancora una uno da rubare. Quando si viveva di timbre di rimpetto. Dare la strada al cielo con il mano un altro intorno. Essere pure nero nel quartiere. Ho sogni in testa e lo voglio realizzare. Invece adesso tocca andare a lavorare. Di pigliatellino non andare ad adorare. Chi si sveglia all'alba mi rischia di partire. Come se non bastasse nessun pure il morire. Dopo lo sfruttato, sotto pagato. Mi senti sfruttato, mi hanno derubato. Prende ciò che c'è per un rischio assicurato. Resti qui la condanna lì. I muri del quartiere l'hanno cementata, ma la gente che vive la giornata saluta il suo quartiere. Va, posso usarlo dietro al bancone, posso usarlo dietro al bancone, posso usarlo dietro al bancone, posso usarlo, posso usarlo, posso usarlo, wow, posso usarlo dietro al bancone a cambiare la situazione. Nessuno ha visto niente. 11:48 sulle libere frequenze di Radio Blackout sui 105.250. Come ormai dai suoi albori, da prima di essere un'occupazione, da prima di aver conquistato il luogo fisico Cavallerizza. E come dicevamo in apertura, appunto il 24 e il 25 settembre ci sarà qui proprio a Torino il Vertice sulla Cultura, uno dei tanti appuntamenti che costellano, diciamo, questo semestre di presidenza italiana al Parlamento Europeo, e essendo proprio in questo frangente di tempo sarà presieduto dal Ministro della Cultura italiano Franceschini. L'appello di Franceschini è quello di riportare l'Europa, di riportare la cultura al centro delle politiche comunitarie. Bene, dalla Cavallerizza si alza forte la voce, una voce che dice il contrario, o meglio che dice belle queste parole, che poco si sposano però con la realtà effettiva del territorio italiano in primis e torinese in particolare, perché abbiamo visto che, diciamo, la Torino della cultura è poi di fatto una Torino di grandi eventi, che creano un debito, una voragine di debito che continua a pesare sulle spalle dei cittadini e degli abitanti della città. Quindi siamo, diciamo, in occasione di questo vertice, la Cavallerizza ha deciso di organizzare una 2 giorni di eventi per portare avanti altri discorsi che non siano quelli della messa a profitto della cultura, ma quelli di un altro tipo di cultura, una cultura dal basso, di e per tutti e tutte. Siamo in diretta con Chiara, che ci presenta un po' questa 2 giorni e le ragioni di questo appuntamento. Chiara, ci senti? Sì, eccomi qua. Perfetto. Allora Chiara, appunto, come dicevamo, questo weekend sarà abbastanza denso, abbastanza ricco di eventi. Se ci puoi un po' aiutarci a districarci, indicarci quali sono gli appuntamenti di queste 2 giornate. Certamente. Allora, sono delle giornate aperte, come lo è sempre la Cavallerizza, che è aperta al passaggio e all'attraversamento di tutti i cittadini, e proprio in una forma quasi di specchio rispetto alla Reggia di Venaria, nella quale i ministri si chiuderanno a discutere di quali sono le prospettive per la cultura e i cui risultati noi sapremo attraverso i loro uffici stampa fondamentalmente. Dicevo, a forma di specchio noi avremo una serie di appuntamenti e di interventi che saranno all'aperto o con le porte aperte degli spazi teatrali recentemente rimessi in uso dalle nostre forze condivise. Allora, innanzitutto il presupposto è quello di partire dagli stessi contenuti che saranno discussi all'interno del vertice, e cioè la tutela e la valorizzazione e l'accessibilità della cultura, e provare a portare innanzitutto degli esempi di come questi stessi contenuti vengano già di fatto lavorati da chi si occupa di cultura nel mondo reale, al di fuori di quegli spazi. Si inizia innanzitutto venerdì 19 alla sera con un primo esempio che sarà quello che accade, diciamo, quasi un'anteprima per cominciare a dire che cosa succede qua a chi arriva. La carovana Balacaval, che da qualche tempo fa parte stabilmente di questi spazi e la occupa, presenterà un video di quello che è accaduto in Cavallerizza negli ultimi mesi estivi di occupazione, in modo da, insomma, presentarci per prima cosa. Sabato e domenica, che sono i due giorni di lavoro vero e proprio, ci saranno a partire dal primo pomeriggio dei dibattiti che affronteranno la questione culturale ad ampio spettro, a partire da quello che è una visione europea e che riguarda i popoli, perché avremo la possibilità per una felice coincidenza, c'è una neoparlamentare che è Eleonora Forenza, appena ritornata da Gaza, che riporterà sia le sue impressioni sulla questione palestinese, sia il modo in cui questo si riallaccia dal punto di vista culturale europeo e nella vita, diciamo così, reale delle persone. Alle 18, nello stesso pomeriggio, si parlerà di lavoro, quindi sempre in modo estremamente concreto la cultura entra nella vita delle persone, con un altro dibattito. Il tema è il lavoro nello spettacolo, l'intermittenza e le realtà in lotta. Si parlerà delle condizioni di lavoro dei lavoratori dello spettacolo, dell'arte e dell'immateriale, con Fiorenza Morini, autrice di un articolo recente che aprirà il dibattito con la cittadinanza. Dopodiché, la giornata successiva, domenica 21, sarà dedicata alle pratiche partecipative di produzione culturale. Abbiamo esteso l'appello a realtà e teatri autogestiti che da anni, già attraverso la loro esperienza, hanno maturato pratiche culturali e di attraversamento, e in questo spazio proveranno a condividere buone pratiche, come attivare processi di produzione culturale partecipati e quello che si dice dal basso, diciamo. Si continuerà nel pomeriggio con uno spettacolo teatrale e, a partire dalle 19, la presentazione del libro di Maurizio Pagliastocchi, Sistema Torino, Sistema Italia, e a seguire lo spettacolo teatrale Il Sistema Torino Non Esiste, di cui so che parlerete più avanti. Avrà una coda tutto questo nella fine della settimana, perché sia durante la settimana alcuni appuntamenti serali, sia il fine settimana dedicato invece con un focus sulla scuola, e quindi sempre la cultura nella forma reale, con un'intera giornata dedicata ai modelli didattici alternativi, le altre scuole possibili. Ci sono diversi appuntamenti, voi potete trovare tutto il programma nel dettaglio sia sulla pagina Facebook di Assemblea Cavallerizza, sia sul sito che cavallerizza.org. Non ho nient'altro da dire. Va bene, Chiara, direi che del resto sei stata molto esaustiva, quindi non è che ci sia tantissimo da aggiungere, se non appunto rimandare alla pagina della Cavallerizza, come dicevi, Assemblea Cavallerizza 1445 su Facebook, mentre www.cavallerizzareale.org per quel che riguarda il sito. Bene, Chiara, grazie mille. Grazie a voi. Partecipate. Assolutamente sì, Parole Ribelli rilancia questo invito a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori delle libere frequenze di Radio Blackout. Sicuramente per quel che riguarda, diciamo, il territorio è un appuntamento importante, la Cavallerizza è sempre un gioiello nel cuore di questa città che grazie all'occupazione finalmente rivive, finalmente attraversata, finalmente è davvero della cittadinanza, finalmente è uno spazio che diciamo, può migliorare di fatto poi la vita, la qualità della vita dei torinesi molto più di quanto potranno mai fare un jazz festival o una, diciamo, una targhetta, una semplice targhetta UNESCO, che abbiamo visto poi di fatto non garantisce nulla se non c'è una volontà da parte dell'amministrazione, perché la Cavallerizza, come appunto come tu ricordavi, anche questa opposizione con Venaria è interessante perché entrambe sono patrimonio in umanità dell'UNESCO come tutte le residenze sabaude, solo che, diciamo, in una grazie alle fondazioni private si è riuscito a mettere a profitto lo spazio, nell'altra si è vista, diciamo, più ghiotta un'operazione speculativa. Quindi nel 2008 è stata messa la Cavallerizza in questo portafoglio immobiliare, grazie al cielo tutte le aste, le banditure d'aste sono andate deserte per i vincoli storici, i vincoli che sono legati al luogo a causa del suo immenso valore storico-artistico. Quindi sicuramente sarà un altro appuntamento interessante in Cavallerizza, un'altra giornata per riempire quel luogo, per attraversarlo e per continuare ad abitare la città, come diciamo noi. Grazie mille, Chiara, ci vediamo questo weekend in Cavallerizza. Va bene. A presto. Allora, come diceva Chiara, tra un po' andremo a sentire Maurizio Pagliassotti, autore prima di Chi comanda Torino, un'inchiesta sulle lobby di potere cittadine, e poi di l'ultimo libro uscito più recentemente, Sistema Torino, Sistema Italia, che di fatto poi appunto in Cavallerizza in quei giorni diventa più che mai calzante, dal momento in cui ciò che di fatto poi impedisce lo svilupparsi di esperienze partecipate dal basso e accessibili a tutti quanti sono quei meccanismi di potere che decidono, diciamo, che anche la cultura debba servire ad ingrassare le tasche dei soliti noti. Quindi abbiamo visto come Chiamparino, da aver aperto la voragine di debito della città come sindaco, è andato a presiedere poi la Fondazione San Paolo e adesso spadroneggia dalle poltrone della regione. Quindi questo, diciamo, perché come tutti, la maggior parte dei torinesi sanno, è un iter abbastanza paradigmatico per descrivere quella che poi è davvero il centro di potere di questa città. Quindi sicuramente, nonostante a Venaria si chiuderanno dietro a delle spesse porte, dalla Cavallerizza andiamo e partecipiamo tutti e tutte numerosi, cercando di far sentire la nostra voce più forte della loro. Ora ancora un po' di musica e poi andiamo avanti con le dirette. Fratello, dove sei? Sorella, dove sei? Ci pensi, mi cerchi nei silenzi in cui non sai trovare una risposta. Sto dalla tua parte, anche quando è tosta. Sto dalla tua parte, anche se non basta. In mezzo alle tue carte manca quella giusta, manca a palla apposta. Sì, manco a dirlo, l'invidia che ti morde da un'altra notte rotta da uno strillo. Fratello, mi senti, ti sei sintonizzato, che non ci ha drenato quello che hai nascosto nel cervello. Mi chiedo, ti sei già dato per spacciato? Non ho capito, hai spaccato, sei scappato, tranquillo, se sono lacrime fiamme da coccodrillo, c'è una fame da sciacallo, il cuore fatto solo di metallo, ma so che c'è ancora un po' di tempo e il sole è ancora alto, di sicuro ci sarà ben altro. Fratello, sorella, dove sei? Tocca da steretta, perché forse è questo solo quello che ci aspetta, o forse sono io che ci affretta, ma so che sto tempo non aspetta. Fratello, dove sei? Sorella, dove sei? Fratello, dove sei? Sorella, dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei sintonizzato? Hai perso la frequenza? Sei stato clonato, omologato? Ti ricordi? Ricordi? Li tengo nel cassetto con l'uncinetto chiuso a chiave come i sordi. Domani, adesso, e se ci pensi sei perso, vedo solo buona vita e presto. Se penso a quello che ho visto, la fine della scena, una cancrena che fa pena, io resto nell'abisso, difficile, perché c'ho da dire, non so come va a finire nel percorso. Chi lo trova il verso, chi trova la chiave d'accesso, ma quel che vuole è solo successo, fratello. Non credere in media, devi essere un coltello, più forte di qualunque tranello. Un anello che forma una catena, tam tam, nella nuova scena, l'unico gioiello. Se lo vuoi lo diventi, mi senti, mi tieni nel cassetto pure stretto fra i denti. Cerco risposte o ti arrendi, in testa incendi, alimenta l'inferno e detti tempi. O stare attenti o stare in tanti, non è duro andare avanti, ma stare fermi e addormentare i sensi. Mi pensi, ci pensi, cerchi il tuo motivo e ti riaccendi. Fratello, sorella, dove sei? Tocca da seretta, perché forse è questo solo quello che ci aspetta, o forse sono io che ci affretta, ma so che sto tempo non aspetta. Fratello, dove sei? Sorella, dove sei? Fratello, dove sei? Sorella, dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? D'altronde ultimamente da ste sponde arriva solo un disturbo che scompone e confonde. Qualche cosa è andato storto da qualche parte, sto provando a chiamare ma non risponde. Accesso negato e ti hanno già fregato, guarda come ti hanno conciato per le feste con lo sguardo triste. Quando parli di un traguardo che non esiste, si capisce che hai già rinunciato, ma conta solo quello che hai lasciato, la scia dietro al nome che hai inventato. L'amore, la passione, non il problema ma la soluzione, conta solo il rimedio che gli hai trovato, perché tutto l'odio seminato il vento me l'ha riportato indietro, e adesso qualche sbaglio lo vedo. Beh, hai le tue gambe, sei in tardo, guardati le spalle, ma guardati anche in faccia se le palle. Fratello, sorella, dove sei? Mi pensi, ci pensi, mi cerchi nel silenzio in cui è dura, dove la fine non è mai sicura, il bilico fra il collo sale in primo di da spazzatura. Ho la colonna sonora e ti assicuro che dà paura, magia pura da cui attingere e stringere tenendosela stretta, perché forse è solo questo che ci aspetta. Fratello, sorella, dove sei? Tocca da steretta, perché forse è questo solo quello che ci aspetta, o forse sono io che ci affretta, ma so che sto tempo non aspetta. Fratello, dove sei? Sorella, dove sei? Fratello, dove sei? Sorella, dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Che Mancherelli, la scelta di Caselli, in palle con i vecchi, quelli che chiamate delinquenti. Io sto con Nicoletta e tutti quelli che difendono la valle anche se non residenti. Barricate in autostrada, se lo Stato non ci caga e la bandana è per il gas. E già tanto che non c'è sempre intifada, perché questa è una battaglia per le nostre libertà. Saremo un fulmine a ciel sereno, nei ricordi per sempre sole e baleno. Immagini in slow motion abbassano le palpebre, questo pezzo va una lotta che non chiude in carcere. Gente che non ha paura, gente che non ha paura, e canta in cuore, assale la mappa e il 90, per mano degli agnelli. Si parla della TAP e i suoi bordelli. Qua sono 20 anni che assediamo cantieri, cancelli, nonni, padri, figli, ormai siamo fratelli. Ribelli della valle, compagni dei boschi, puffi con i caschi, bonza, perenni. E anche se non ci abito, non mi cambio d'abito, non TAV, dalla Valsusa al terzo valico. Sono 20 anni che con questa TAV insisti. E dimmi un po' chi sono gli ecoterroristi. E gli infiltrati qui, chi cazzo li ha mai visti? Gli unici infiltrati qui sono gli sbirri. Non venire a fare la campagna elettorale, non venire a rovinare un movimento popolare. No TAV, costi quel che costi. Se la valle chiama, noi saremo ai nostri posti. Gente che non ha, gente che non ha paura, e niente al cuore, a stare più la mappa al cuore. Gente che non ha, gente che non ha paura, e canta in coro, a stare più la mappa al cuore. Stringi, al mondo esistono due categorie di persone: quelli che fanno chiacchiere e quelli che fanno i fatti. La maggior parte fa solo chiacchiere, sa solo parlare. Ma alla fine quelli che fanno i fatti sono coloro che cambiano il mondo. E quando lo fanno, cambiano anche noi. 12.08 sulle libere frequenze di Radio Blackout, come dicevamo prima della pausa musicale, siamo in diretta con Maurizio Pagliassotti. Ci senti, Maurizio? Sì, ciao a tutti, ciao. Ciao, allora, noi abbiamo, prima di sentirti, presentato il weekend in Cavallerizza e facevamo un po' un ragionamento su come sia molto, diciamo, la Cavallerizza sia un luogo direttamente collegato a quelle che sono poi i contenuti dei tuoi libri, entro sia Chi comanda Torino che Sistema Torino, Sistema Italia. Ma facciamo piuttosto parlare te. Quindi, che cosa, diciamo, andrà domenica in scena in Cavallerizza, un adattamento teatrale di quello che è appunto il tuo ultimo libro. Vuoi dirci un po', diciamo, innanzitutto un po' i contenuti di come mai questo testo, e poi anche un po' la scelta di farne un adattamento teatrale, che non è una scelta scontata per un'inchiesta giornalistica, anzi. Quindi, prego. Allora, domenica sera, Gran Soirée, in cui faremo, come dire, una trimalchionica scorpacciata di pattumiera cittadina, perché io presento il libro, l'ultimo, alle ore 19, mentre Massimo Giovara, autore e attore dello spettacolo teatrale Il Sistema Torino Non Esiste, andrà, come dire, in scena alle ore 21, quindi siete tutti invitati se volete passare 3 ore grottesche, perché appunto è il racconto della nostra città da un punto di vista fisico, scientifico, e da un punto di vista, come dicevi tu prima, teatrale. La rappresentazione teatrale di questa realtà è, secondo noi, uno strumento per veicolare il messaggio il più possibile, dato che il nostro, cioè ciò che noi portiamo, ciò che noi raccontiamo, è assolutamente minoritario. Abbiamo a che fare con un'informazione che è totalmente sdraiata e schierata solamente da una parte, quindi abbiamo deciso di inventarci delle nuove forme di comunicazione che vedessero un'interazione tra l'inchiesta giornalistica teatrale e il mondo della comunicazione più vasta. Non è assolutamente una novità questa, arriva da 3.000 anni, se si può dire tutto questo, però noi, come dire, l'abbiamo portata su un territorio molto vicino, raccontando di persone molto vicine a noi e, come dire, prendendoci anche dei rischi, perché poi le persone si offendono, si mandano le lettere, e e così via. Però è molto divertente, molto piacevole, si ride, si piange, si bestemmia tanto e siete tutti invitati. Sì, appunto, tu ricostruisci un po' qual è il sistema di lobby di potere su prima di tutto il territorio urbano e poi dando uno sguardo, diciamo, a dinamiche, certo, ben più ampie. Ma io sono molto contento di presentarlo alla Cavallerizza, perché la Cavallerizza è proprio il luogo dove in questo momento non si parla né del passato né del futuro, ma è in corso la, come dire, materializzazione del sistema. C'è proprio un qualche cosa che coinvolge tanti soggetti che sono elencati nel mio libro e nello spettacolo di Max e che lì trovano proprio rappresentazione plastica in questi giorni. Beh, certo, ricordiamo che diciamo un po' qual è stato l'iter della Cavallerizza. La Cavallerizza è stata messa nel 2008 in questo portafoglio immobiliare, è stata cartolarizzata, che di fatto è un termine e un processo anche complicato per mettere a profitto ciò che formalmente non si potrebbe vendere, e dopo questa cartolarizzazione fondamentalmente il comune ha creato questa partecipata, la Torino, società Torino Cartolarizzazioni, in cui con un capitale del tutto pubblico minimo, che poi ha fatto indebitare con la San Paolo per ha fatto indebitare la società di Torino Cartolarizzazioni con la San Paolo perché anticipasse, diciamo, i soldi di una vendita che poi di fatto non è mai avvenuta. Quindi chi formalmente ora possiede la Cavallerizza, o meglio ha in mano il denaro che la tiene bloccata, è poi la San Paolo. Certo, sicuramente, nonché è un luogo di potere culturale, il potere culturale, dato che, come dire, alla morte dei partiti, alla morte delle ideologie, è quel luogo dove si possono costruire i significati da portare poi alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione, ed è per questo che quel luogo è molto ambito, cioè è in assoluto il più ambito di Torino, perché da quel luogo lì possono nascere nuovi personaggi, che saranno personaggi della cultura, che poi verranno spostati sul mondo della politica, sul mondo della finanza. Quello è l'humus su cui la Cavallerizza, il sistema, rigenererà se stesso. È per questo che lo vogliono prendere a tutti i costi. Ed è per questo che questi ragazzi stanno facendo un lavoro unico, cioè encomiabile, bellissimo. Beh, sì, sicuramente sottrarla con un impegno quotidiano a questo triste destino è ciò di cui il territorio ha molto più bisogno che non di quelle che sono le destinazioni d'uso deliberate dal Consiglio Comunale, che sono residenze, residenziali, che vuol dire più o meno tutto e niente, perché residenziale può essere un albergo di lusso, può essere un mega appartamento, può essere un monolocale, ma sappiamo perfettamente che non di certo una posizione di pregio come quella è l'unico posto da cui si vede la mole incorniciata di verde, è un sito architettonico unico nel suo genere a livello mondiale, quindi comunque di certo la speculazione è ghiotta, quindi ricordiamo che infatti per esempio è stata spezzettata un po' questa Cavallerizza per riuscire a venderla, c'è una parte di maneggio che è stata ceduta all'università, poi c'è stata questa, la cessione dello stabile si è interrotta in questo braccio di ferro un po' tra Martone e Fassino, quindi sicuramente è un luogo centrale per quella che è poi l'identità che Torino ha scelto, la brandizzazione urbana che di Torino si fa, la Torino dei giovani, certo, la Torino della cultura. Certo. Ma infatti, oltre a bloccare il malloppo, la svendita, si sta bloccando proprio la rigenerazione stessa del modello su se stesso. È veramente molto importante quello che sta accadendo lì, perché si sono messi i bastoni tra le ruote al modello, quello che ci viene portato come universale da 20 anni. Infatti, no, ma assolutamente, poi discorso che in Cavallerizza si sente, che anche a noi, diciamo, come studenti e studentesse che devono attraversare adesso l'astronave campus, interessa molto, un po' il parallelo tra la messa a profitto del patrimonio culturale, quindi immateriale anche, ma anche quella del territorio in varie forme, e ovviamente quelle che sono strutture come la Cavallerizza, che sono in pieno centro, nel pieno cuore di questo nodo qui, sono assolutamente nell'occhio del ciclone da questo punto di vista. E anche dal tuo libro emergeva molto bene, secondo me, quello che poi è un discorso che appunto l'Assemblea Cavallerizza fa, che è un po' il parallelo anche tra la grande opera e il grande evento. La grande opera è un qualcosa che, diciamo, grazie anche al movimento Notav, adesso al comitato No Expo, insomma, a tante piccole grandi realtà che appunto anche No Porto, ce n'è abbastanza, che hanno portato fuori questo discorso, hanno esplicitato come di fatto poi il meccanismo della grande opera non porti lavoro, perché il lavoro che porta è precario, a termine, e soprattutto gestito con, diciamo, criteri mafiosi, non porti assolutamente niente al territorio se non cemento e privatizzazione, perché poi il meccanismo della grande opera è il general contractor che diciamo assume l'incarico senza bando, poi dà al subcontractor che può scegliere liberamente chi sia. Vediamo in Valsusa aziende e società che spariscono e ricompaiono con lo stesso amministratore delegato con nome diverso, però da un momento all'altro. Sicuramente è un po' più inesplorato invece questo terreno dei grandi eventi, che comunque da Torino è un punto privilegiato per osservare questo meccanismo. Certo. Bene. L'importante è che entrambi generino debito, è molto importante questo, perché senza il debito non hai la clava per poi imporre delle decisioni che vengono spostate da un piano materiale ad un piano morale, perché il debito significa colpa di chi? Dei cittadini che hanno vissuto al di là delle oltre possibilità, delle loro possibilità e così via. Il meccanismo dei grandi eventi e delle grandi opere è, sì, certo, la svenza, ma prima di tutto è quello di creare un debito con degli istituti di credito privati. Pronto? Mannaggia, mi sa che è saltata la linea, il collegamento con Maurizio. Proviamo un attimo a ristabilirlo, anche giusto per salutarci un po' meglio, perché andavamo in chiusura. Quindi proviamo un attimo a ristabilire questo collegamento. Voi a quale categoria appartenete? Fate solo chiacchiere oppure vi alzate in piedi e fate i fatti? Perché credetemi, tutto il resto è solo una marea di cazzate. Noi che siamo abituati a perdere, voi avete il diritto di essere voi, sempre se non vuoi non parlare mai, che è stato te stesso sempre con noi, che siamo abituati a perdere, voi avete il diritto di essere voi, sempre se non vuoi non parlare mai, mai, anche il diritto di prendere inizia, tu vai pizza, io mi pompo pizza, rizza, con pizza, rizza, pizza, sono storie vere, storie di quartiere, mica schiavi di fattute, ma di passeggere, loro non vanno oltre quel che vedono, validi di davvero. Niente, non siamo riuscite a ristabilire il collegamento con Maurizio, comunque diciamo quel che c'era da dirsi ce l'eravamo già detti. E quindi niente, rimandiamo noi all'appuntamento di domenica sera in Cavallerizza, come ha del resto tutti gli appuntamenti di cui si parlava. Ricordiamo anche che ci sarà dopo il vertice al campus Einaudi un convegno degli istituti storici italiani, come diciamo accodato a questo evento di risonanza mediatica più ampia si mette in calce questa piccola kermesse di virtuosismi italiani che non si capisce bene poi a che cosa dovrebbe portare, se non hanno un minimo di finanziamenti, un minimo di cose effettivamente su cui poi di fatto si possono impegnare, perché sono peggio ancora sono fondazioni magari private. Vabbè, sì, insomma, la diretta è stata troncata malamente, ma non per nostra volontà. Speriamo comunque di avervi fatto venire un po' di curiosità e che quindi vi venga voglia di andare a sentire lo spettacolo domenica sera insieme agli altri appuntamenti che già abbiamo ricordato. Nel frattempo abbiamo fatto le 12:23, quindi ci avviamo verso l'ultima parte per questa prima puntata di Parole Ribelli. Come avevamo annunciato in apertura, andremo ancora a presentare un altro appuntamento, che è quello di InfoOut Connection, che si aprirà domani a Bologna. Vi lasciamo in compagnia di un po' di musica per permetterci di preparare appunto la diretta con un compagno bolognese che andrà a illustrarci il tutto. Quindi buon ascolto e ci risentiamo tra pochi minuti. Hurricane been incarcerated all of his life. Started out of life 12. Trapped in the belly of hell. Grew into a man inside of a cell. Yo, anger just swell up. At an early age that developed. Hot headed, now it ain't shit. Talk and tell him. They said he's on the road to become a felon. But instead, he swung blows at a spinch of melon. He did his thing and was the king of the ring. Undisputed. Started making noise, but they tried to mute it. They put him through it. For him to make the system look stupid. They'd rather look you in the face and shoot it. And leave your spot. I'll leave your whole life blank, future in court. When you scream, I didn't do it. With sweat leaking from the outline of your silhouette. Don't understand the point that you at, or how the hell you came to it. Flashback images of that night, out in Patterson. They pulled him over heading home from a gathering. And when they told him to charge, it kind of baffled him. Murdering the first of 10, we on that level. Imagine you locked down forever. Cause y'all stand a weapon. Cause you hold it together. Junk cats, you know the pain. Yo, imagine if your life was like a hurricane forever. Imagine you locked down forever. Cause y'all stand a weapon. You built for that weapon. Yo, you know what I'm saying? You know what I'm saying? Seen the split left is wondering what can become of kings or young kids. Some a dream deferred, incident occurred, freedom blurred, a freedom that would only be retrieved again at first. Later on, the cops, y'all know what they be on. A nigga's life is like a field that they play upon, away and gone from natural life. But so we had to fight, learning them stuff. These days we up after night amongst the dead men walking. We got afterlife exercising, developing his natural right. Never leaving his cell in this world, he trapped himself. What he loved on the outside world detached himself. You know the cards black spit dealt by the system. Drew a picture of freedom with many dimensions. This picture proved to be bigger than black and white. A young soul named Lazarus brought him back to life. It's amazing to a man what a book can do. And how certain books seem to look for you. This is the story of a champion's fall and rise. A story left me right from my eyes. Yo, imagine you locked down forever. Did you stand on one foot? Did you hold it together? Some cats know the pain. Yo, imagine if your life was like a hurricane forever. However, you're locked down forever. Did you stand on one foot? Yo, yo, I can't even explain the pain. Just imagine if your life was like a hurricane. Yes, I am the inescapable, the irresistible. irresistible, the unnegotiable, the unchallenged. I am time. I stole the measurements, control the elements. I hold the evidence, I tell the story. I am time. I know no prejudice, I bear no sentiment. For all the settlements, I move forward. I am time. You can't recover me, conceal or smuggle me, retreat or run from me, crawl up behind me. You can't do much for me besides serve. Well, I have good dividends returned to you. Or attempt to kill me or to have me murder you. Many have wasted me, but now they are facing me. Treated me unfaithfully and now endure me painfully. Plaintively, I wait to see what history will shake to be. Who lost one of a die inside the sake of me? And you strive to reach for me. Keep a full account of all the names for me and make a stretch mark for hurricane. Who's gonna change for forever? Smash keep locked down forever. Cause you pull it together, I can't even explain the pain. Imagine if your life was like a hurricane. A hurricane's forever. Imagine you locked down forever. Ever, ever. Cause you pull it together, yeah. Can't explain the pain. Words, yeah, I'm saying. So imagine if your life was like a hurricane. Clapped in the heavens, gave birth was law. God prayed in a man, on a day was born. Convicted minutes after, a true natural disaster. Framed for manslaughter, the hurricane caught a rise. I'm out in south water, like torrential rain. As a rain, no opponent escaped unscathed. You can't believe the wrong we live is unjust. All I see is more proof, there's no place for us. They have a man caught a locked in a cage, like an animal. Dropped to the point where the mind works mechanical. The words fly below control. It was done to all of us. They tap directly into our soul. Either it's sink, sink, or it's bars around your mind. There's nowhere to run, nowhere to hide. And a 6x6, a guilty man cries for repentance. A loss is where innocence is. Same story, same fog, it's different time. Typical reaction from the prisoners of the time. Trying to fight time, it's a battle of the mind. Fighting for redemption, surviving in the bind. Same story, same fog, it's different time. Typical reaction from the prisoners of the blind. Trying to fight time, it's a battle of the mind. Fighting for redemption, surviving in the bind. Keep locked down forever, cause you stand up with us, cause you pull it together. I can't even explain the pain. Yeah, I'm saying, your life was like a hurricane forever. Imagine my eyeballs forever. Cause you stand up well, but you built for that. You come for that. Don't tell me that you know the pain. Your life was like a hurricane. Let's get organized. Power in numbers. sick of these politicians, sick of these schools and these churches, sick of their whole system. Instead of education, they building new prisons. This generation fed up, seeking a new vision. Waiting for healthcare, you dying on the stretcher. They took away the welfare and the food, clothes and shelter. Got these teens in wheelchairs, military veterans. But the people waking up to resist the suppression. Everywhere we go, we travel around the globe, and it's the same struggle. The working class who control, be the ones that suffer the top of the food chain. Rich, white, fat bosses flossing with 90% of the world's resources. 5 years, even though that's not what Obama says. Too many broken promises. We raising up the consciousness in the community to fight the real enemy. From Tennessee to Italy, we need solidarity. Hope we didn't end up on the bottom from the vote. No, we came in chains on the bottom of the boat. Low, they'll never free us. They elections is a joke. Only way we break the chains of our oppression is the vote. So. Let's get organized. We won't survive if we don't. Let's get organized. Power in numbers, come on. Let's get organized. We'll just be singing the song. Let's get organized. This is freedom, what you want. Let's get organized. We won't survive if we don't. Let's get organized. Power in numbers, come on. Let's get organized. We'll just be singing the song. Let's get organized. Allora, 12:33, ultimi minuti a disposizione per Parole Ribelli per questa settimana. Come avevamo promesso, siamo in collegamento con Vallo del collettivo universitario autonomo di Bologna, che intanto salutiamo e ringraziamo. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ecco, come dicevamo, domani si apre questa 4 giorni di discussione collettiva, workshop, approfondimenti, concerti e molto altro a Bologna, la InfoOut Connection. Ovviamente, insomma, il programma è molto denso e fitto, quindi riassumerlo in questa diretta di pochi minuti sarebbe veramente difficile, però insomma ti chiederemo un po' di presentare anche lo spirito che sta dietro a questa iniziativa, quindi già a partire dal nome. Avere la chiamata InfoOut Connection proprio con l'intenzione un po' di provare a connettere diverse esperienze di lotta che verranno messe a confronto in questi giorni, da appunto lotte territoriali, dal mondo della formazione, lotte transnazionali. Appunto, se ci fai una breve presentazione, poi in particolare un focus su l'assemblea che ci sarà sabato pomeriggio, che è quella che poi ci riguarda un po' più da vicino, che andrà a discutere delle prospettive di lotta del soggetto giovanile dentro ai bordi del mondo della formazione, per provare un po' a capire appunto le prospettive verso l'autunno, alla luce appunto di un mondo universitario che insomma al momento non sembra aggredito da nuove riforme o decreti, ma che comunque presenta una serie di linee di tensione su cui è possibile provare a intervenire per appunto creare situazioni di lotta e di conflitto. Quindi niente, ti lascio la parola per presentarci un po' il tutto. Direi che, insomma, per presentare la Connection, ovviamente, come dicevi tu, ci vorrebbe molto più, insomma, una puntata, però insomma cercherò di essere anche breve e insomma esporre anche quali sono i punti effettivi su cui insieme abbiamo iniziato anche a ragionare su come si potrebbe creare un evento come appunto è la Connection di questi prossimi 4 giorni, che va dal 17 al 20 settembre, appunto un momento per provare a connettere, come dicevi benissimo tu prima, tutte le lotte che si muovono a livello sia territoriale, nazionale qui sul nostro paese, ma anche a livello transnazionale, quindi cercando soprattutto con il tavolo che sarà l'ultimo giorno alle 18 a creare momenti di discussione anche con realtà che sono oltre i confini del nostro paese, che appunto hanno quantomeno vissuto dei momenti di forte conflittualità e di antagonismo sociale in questi anni. Parlo della Grecia, della Turchia e anche appunto realtà come quella tedesca, che stanno aprendo comunque gli orizzonti rispetto a quelle che sono nuove geografie di lotta all'interno dello spazio comunque in cui viviamo. Sicuramente i quattro giorni saranno ricchi comunque anche di contenuti, perché appunto quello che si è voluto andare a mettere in campo è cercare un attimo, a partire da quelle che sono le varie esperienze che soprattutto nell'ultimo anno hanno segnato quello che è stato il calendario dei movimenti, appunto cercare di tracciare quindi quelle che sono delle linee di discussione, come appunto si può vedere guardando un attimo quello che è il calendario di questi quattro giorni, a partire dalle lotte e le sperimentazioni che si stanno dando sulla questione della fiscalità, come ad esempio giù in Campania con la Tares, e passando poi ovviamente per quello che è stato il 9 dicembre, le sue ambivalenze, soprattutto a Torino, come appunto una questione da guardare, da analizzare, e soprattutto capire anche in questa su questi terreni come sapersi approcciare eventualmente, appunto, stando all'interno delle ambivalenze che questi territori nuovi da esplorare ci stanno dando, e su cui poi appunto affrontare anche più densi rispetto a quelle che saranno le prospettive di lotta. Si andrà poi ovviamente alle questioni anche della rete, come uno spazio di conflitto e di posizionamento, su cui creare anche in questo caso nuove forme di comunicazione, come la questione delle radio e di social media, e appunto anche la questione della rete proprio come un vero e proprio mondo in tensione, in cui verrà presentato anche il libro a cura della Club di Cremona, dentro Anonymous della Carola Frediani. Poi ovviamente ci saranno anche tavoli con realtà nazionali come appunto in Ottav, Ottav Terzo Valico, Nomos e Nobiomasse, e insomma tanti altri, ovviamente i movimenti di lotta per la casa e i lavoratori della logistica con i loro sindacati di base organizzati interverranno all'interno a loro anche di un tavolo, che è precisamente quello di venerdì 19, che insomma sarà anche un attimo quello più denso rispetto ai contenuti e le prospettive. Il sabato poi, come dicevi benissimo tu, ci sarà anche quello legato al mondo della formazione, quindi provare un attimo a partire da quelli che sono stati questi ultimi anni sicuramente di forte ristrutturazione dell'università e appunto dei luoghi della formazione, provare a capire quindi quali possono essere i nuovi terreni da intestare, da sperimentare, su cui agire nuove pratiche di conflitto e di riappropriazione, quindi anche rispetto a quelli che sono i bordi dell'università, quindi non fermandoci soltanto a quelli che sono i confini delle facoltà, ma provando ad andare anche oltre, agendo soprattutto su quello che può essere il terreno anche qui del welfare, del reddito e delle risorse pubbliche che sempre più l'università sta svendendo a privati e alla speculazione per un profitto ovviamente che non è assolutamente quello degli studenti. E poi ovviamente, come dicevo prima, ci sarà il tavolo con varie realtà europee, insomma su le prospettive di lotta transnazionale. Questo, ecco, ho cercato di fare un attimo il punto sui tavoli che sono quelli un po' più centrali rispetto a tutte le varie giornate. Sicuramente poi le iniziative non sono soltanto queste, anzi il calendario è bello fitto, tutte quante le giornate vivranno ovviamente di momenti di comunque di pranzi sociali a cura di varie realtà di lotte che ci sono qua sul territorio, che siano quelle universitarie rispetto alla mensa più cara d'Italia, quindi occupa mensa, o le case, i condomini sociali di Social Log, oppure appunto le realtà come Genuino Clandestino che si muovono per di agricoltura altra e biologica. E ovviamente poi le serate saranno contornate da momenti artistici e musicali, con il 19 e il 20 settembre con Mad Professor e il sabato invece Mamma Maria e Don Ciccio, mentre gli altri giorni ci saranno appunto presentazioni e reading con il Duca, un omaggio a Freak Anthony con Alessandra Mostacci, e poi ovviamente anche presentazioni di libri come possono essere quello Scarichiamo i padroni sulle lotte della logistica qui a Bologna, e appunto una traduzione italiana a cura della redazione di InfoOut di Promissory Notes del Midnight Notes Collective, in cui interverrà anche appunto Massimo De Angelis. Ecco, credo di aver fatto un attimo un punto abbastanza allargato su quella che sarà la connection. Ovviamente questo, ricordiamo a tutti, è uno spazio aperto a tutte le realtà che si vorranno confrontare sui nodi che appunto abbiamo proposto alla discussione a livello comunque nazionale per quanto riguarda le realtà di movimento, e che appunto ci auguriamo che possa essere un buon inizio anche questo per dare sbocco insomma a un autunno che sarà sicuramente caldo e che ha già il calendario bello denso, a partire sicuramente dal 16 ottobre, la data quella dello sciopero sociale. Ricordo ultima cosa, poi vi ridò la parola, veramente l'area sarà comunque fornita di uno spazio per campeggiare o comunque anche per dormire, quindi saranno anche garantite questa possibilità, quindi quella di soggiornare all'interno dello spazio del laboratorio Crash, e appunto colazioni e docce insomma disponibili. Va bene, Vallo, direi che con pochi minuti a disposizione sei riuscito comunque a dare tutte le informazioni insomma centrali. Ovviamente per chi fosse interessato a partecipare, a saperne di più, rimandiamo al sito www.infoout.org, dove c'è appunto tutto il programma completo e dettagliato, anche le informazioni logistiche per l'ospitalità e tutto il resto. Quindi niente, ti ringraziamo molto per questa diretta e ci vediamo a Bologna a questo punto. Grazie a voi per avermi contattato, ci vediamo domani alla Leafout Connection. Allora. A domani, grazie Vallo, ciao. Grazie ciao. Mille. Allora, 12:45 in questo momento, è giunto quindi il momento dei saluti. Parole Ribelli vi dà appuntamento alla prossima settimana, come sempre dalle 10:45 flessibili alle 12:45 invece puntuali, per lasciare spazio al GR come ci apprestiamo a fare. Rimanete ovviamente sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout, la programmazione continua appunto con il GR, poi Cattivi Pensieri, quindi una buona giornata e buona ascolto, e risentirci martedì prossimo. Ciao a tutti e tutte anche da Eddie, e ci vediamo martedì prossimo per un'altra puntata di Parole Ribelli. Adesso lasciamo spazio al GR.